I lavori di domani, di Anna Marino. La trasformazione digitale ha impatti sulla sostenibilità ambientale, culturale, sociale ed economica. Tecnologia, software e tools, se gestiti, possono però portare alla sostenibilità digitale. Un digital transformation specialist o un innovation manager inseriti in un'impresa possono conciliare tutto, implementare e supportare in questo senso le soluzioni IoT per i prodotti e per i sistemi in azienda. Ci sono infatti soluzioni concrete che sono un punto d'incontro tra il mondo universitario della ricerca, pubblica e privata, istituzioni, aziende che supportano politica e istituzioni nella costruzione di ecosistemi normativi e sociali sostenibili, e ci sono lavori e figure che possono gestire la digital transformation in termini sostenibili per la società e per le imprese, come spiega Stefano Epifani, esperto in digital transformation. Senz'altro sono quelli che hanno molto a che fare con il processo di trasformazione digitale in corso, e quindi tutto ciò che riguarda le tecnologie, le nuove tecnologie o le tecnologie che vengono definite leading edge, come l'intelligenza artificiale o anche semplicemente l'analisi dei dati, sono tutti temi che stanno riscontrando grandissimo interesse da parte di qualsiasi azienda. Ma in questo senso anche quelle figure che riescono a declinare questi temi, che sono spesso pensati per grandi e grandissime aziende, sulle piccole e medie imprese. Quello che abbiamo visto in questo periodo è che temi come lo smart working piuttosto che il learning sono diventati centrali. Ecco, c'è grandissimo bisogno di esperti che supportino le piccole e medie imprese in questo percorso di cambiamento, tanto nei modelli di business quanto nelle tecnologie utilizzate per agirli, e tutto ciò diventa centrale rispetto alla possibilità di creare modelli di business sostenibili. Questi esperti chi sarebbero, cioè quali professioni, quali figure? Diamo qualche esempio, qualche definizione, possono essere anche giovani, non solo diciamo esperti con seniority alta, ma anche persone che si sono formate e possono dare quell'apporto in più che è necessario ed è attuale. Sì, quello che con una label, con un nome forse poco fortunato per una serie di motivi, viene definito innovation manager, colui il quale sostiene l'azienda nel percorso di innovazione. Questo da una parte, pensando soprattutto alle PMI, dall'altra esperti di intelligenza artificiale, analisti di dati, tutte quelle figure che ruotano attorno alla capacità sempre più importante e centrale di identificare dati e costruire su di essi set di conoscenze attendibili. Sono figure che guadagnano di più, hanno una remunerazione più alta, una specializzazione migliore, c'è anche la possibilità di aggiornare delle competenze di base e di studiare, ma anche con un ritorno abbastanza immediato per chi si forma così. Sì, queste sono figure che stanno vivendo in pieno il fenomeno dello skill shortage. In altri termini, ci sono più offerte di quella che è la domanda effettiva, tanto che nella maggior parte dei casi queste figure vengono assorbite dal mondo del lavoro addirittura prima di completare il percorso di studi. Non è infrequente che le aziende chiedano di svolgere tesi in azienda, pensando ai laureati, oppure che si passi da stage ad assunzione in un contesto in cui le figure professionali hanno da una parte un'alta qualificazione che viene dalla formazione universitaria, dall'altra la necessità di acquisire competenze pratiche che sono fornite spesso nel contesto dell'impresa. Per quanto riguarda il guadagno, diciamo così, di queste figure, si passa da un minimo di 25.000 euro lordi l'anno in prima assunzione ad una media per chi si occupa di analisi dei dati che ruota attorno ai 30-40.000 euro l'anno. Va detto che per un massimo che è davvero di difficile identificazione, perché queste figure spesso sono così strategiche che la contrattualizzazione viene effettuata sulla base di processi contrattuali che sono specifici e che possono arrivare a cifre veramente alte, spesso superano i 100.000 all'anno. Certo, e questo fa gola, diciamo, a molti, però per arrivarci ci vuole un percorso. Dove ci si forma? Come avviene la formazione? Ci si forma con un mix di modelli e metodi che è abbastanza articolato, perché senz'altro le facoltà vocazionali dalle quali partire sono quelle di ingegneria, ma anche fisica e talvolta persino filosofia, senz'altro statistica. In questo contesto la formazione di base viene spesso compendiata da master o PhD che vengono fatti in Italia o meglio, francamente, talvolta su master di altissima qualificazione all'estero. È chiaro che tutto ciò però non risponde completamente all'esigenza di formazione in questo ambito, perché una volta usciti dal PhD o dal master ci si continua a formare sul campo acquisendo sempre esperienza attraverso percorsi di continuous learning. È impensabile il contesto in cui questo tipo di figure smetta di studiare. Quindi alla formazione strutturata che può venire dall'università o da altri percorsi paralleli è indispensabile prevedere un percorso di formazione non strutturata che talvolta arriva a coprire diverse ore al giorno e che dura per tutto l'arco della vita. Quali sono fondamentalmente le cose che bisogna imparare e aggiungere alla propria formazione di base, che può essere universitario o diploma? Dunque, gli ambiti sono essenzialmente due. Da una parte ci sono le hard skill. In questo momento è impensabile lavorare nel settore della trasformazione digitale o dell'analisi dei dati senza avere competenze solide in statistica, senza avere competenze di base di analisi matematica, senza saper mettere quindi mano alla dimensione dei numeri. A queste si affiancano le soft skill, che hanno un ruolo sempre più centrale e che riguardano la capacità di comprendere e interpretare il mutamento della società e di intercettare come questo mutamento possa impattare sui modelli di business delle imprese. Dove si possono trovare le offerte di lavoro? Ma in realtà, essendo figure che vivono in un contesto di profondo skill shortage, l'incrocio tra domanda e offerta avviene tramite le job fair o tramite le iniziative che le aziende portano avanti con l'università. Non è vero che l'università è sempre lontana rispetto al mondo del lavoro. Oggi spesso le università sono in grado di intercettare le aziende e sono intercettate dalle aziende, così che si possono costituire momenti di incontro, job day piuttosto che giornate nelle quali l'università si apre all'impresa, e questo è il momento migliore per costruire questo punto di incontro per quanto riguarda ovviamente le figure ad altissima qualificazione.